ad alta voce. Daria De Florian legge Il diario di Anna Frank. Giugno 1942. Spero di poterti confidare tutto, come non ho mai potuto fare con nessuno, e spero che mi sarai di grande sostegno. Ventotto settembre 1942. Aggiunta. Finora mi sei stato di grande sostegno, e anche Kitty, alla quale ora scrivo regolarmente. Questo modo di scrivere il diario mi piace molto di più e adesso quasi non vedo l'ora di avere il tempo per scrivere sulle tue pagine. Sono molto, molto contenta di averti portato qui con me. Domenica 14 giugno 1942. Voglio cominciare da quando ti ho ricevuto, e cioè dal momento in cui ti ho visto sul tavolo tra i regali di compleanno. Perché il momento dell'acquisto, a cui pure ho partecipato, non conta. Venerdì 12 giugno ero sveglia alle 6, ovvio, era il mio compleanno, ma alle 6 non mi potevo alzare, così aspettai fino alle 7 meno un quarto. Quando non riuscii più a trattenermi dalla curiosità, andai in tinello dove Morty, la gatta, mi salutò strusciandomi la testa contro i piedi. Poco dopo le 7 andai da papà e mamma e poi in salotto per aprire i pacchetti. Tu eri il primo, sicuramente uno dei più belli. C'erano anche un mazzo di rose, due rami di peonie e una piantina. A questi figli di Flora che quel mattino si trovavano sul tavolo, ma poi arrivarono molti altri regali. Papà e mamma mi hanno regalato una camicetta azzurra, un gioco di società, una bottiglia di succo d'uva, che secondo me sa un po' di vino. Il vino del resto si fa con l'uva. Un puzzle, un barattolino di crema, una busta con due fiorini e mezzo e un buono per l'acquisto di due libri. Poi, ancora un libro, Camera Obscura, che però ce l'ha già Margot, così l'ho cambiato. Un vassoio di biscotti fatti in casa, da me ovviamente, visto che in questo periodo mi riescono proprio bene. Molte caramelle e una torta di fragole della mamma. Una lettera della nonna, arrivata puntualissima, ma naturalmente un caso. Poi è venuta a prendermi Annelie e siamo andate a scuola. Durante l'intervallo ho offerto biscotti di pasta frolla agli insegnanti e ai compagni, ma dopo ci siamo dovuti rimettere al lavoro. Sono tornata a casa alle 5, dopo aver assistito alla lezione di ginnastica, anche se non posso mai partecipare perché mi slogherei le braccia e le gambe, dove ho proposto che i miei compagni giocassero a pallavolo per il mio compleanno. Dopo mi si sono messi tutto attorno in cerchio e hanno cantato tanti auguri a te. Tornata a casa ho trovato Sunny Lederman che mi aspettava. Ilse Wagner, Anneli Gosler e Jacqueline Van Marsen me le ero portate dalla ginnastica, visto che siamo in classe insieme. Un tempo Anneli e Sanne erano le mie migliori amiche e quelli che ci vedevano dicevano «Ecco Anne, Hanne e Sanne». Jacqueline Van Marsen l'ho conosciuta appena al liceo ebraico e adesso è lei la mia migliore amica. Ilse è l'amica del cuore di Anneli e Sanne frequenta un'altra scuola dove ha le sue amiche. Mi hanno regalato un libro stupendo, Saghe e leggende olandesi, ma per sbaglio mi hanno dato il secondo volume, così ho scambiato altri due libri con il primo. Zia Elene mi ha regalato un altro puzzle, zia Stefanie una bellissima spilla e zia Leni un libro fantastico, Vacanze in montagna di Daisy. Stamattina in bagno pensavo che sarebbe stato splendido se io avessi un cane come Rin Tin Tin. Lo chiamerei anch'io Rin Tin Tin e durante le lezioni lo lascerei dal custode della scuola o, quando fa più caldo, sotto la tettoia delle biciclette. Sabato 20 giugno 1942. Per una come me scrivere un diario è una sensazione davvero strana. Non solo perché non ho ancora mai scritto, ma perché ho l'impressione che un domani né a me né a nessun altro potranno interessare le confidenze di una ragazzina tredicenne. Ma tutto sommato non importa. Ho voglia di scrivere e soprattutto di sfogarmi una volta tanto su diverse questioni. La carta è più paziente degli uomini. Questo modo di dire mi è tornato in mente un giorno che ero un po' triste e malinconica e me ne stavo con la testa appoggiata sulle mani a pensare se uscire o meno. Alla fine non mi sono mossa di lì e ho continuato a pensare. Già, la carta è davvero paziente. E visto che comunque non ho intenzione di far leggere a nessuno questo quaderno cartonato che porta il nome altisonante di diario, a meno di non avere nel corso della mia vita un amico o un'amica che siano davvero degni di questo nome, credo che probabilmente non gliene importi niente a nessuno. Ma ecco, mi è arrivata il motivo per cui mi è venuta l'idea di tenere un diario. Non ho un'amica. Per essere più precisa, devo spiegarmi meglio, perché nessuno crederà che una ragazzina di 13 anni possa essere completamente sola al mondo. Infatti non è vero. Ho dei cari genitori e una sorella di 16 anni. In tutto avrò almeno una trentina di conoscenti, quelle che di solito si chiamano amiche. Ho un sacco di ammiratori che pendono dalle mie labbra e quando non riescono a fare di meglio cercano di guardarmi in classe usando un pezzo di specchio. Ho parenti, zie simpatiche e una bella casa. No, così a prima vista si direbbe che non mi manca niente, a parte l'amica del cuore. Con tutte le mie conoscenti posso soltanto divertirmi, si fanno solo discorsi banali e non si parla mai di argomenti più intimi. Qui casca l'asino. Forse sono io che non mi fido. Comunque il problema esiste ed è un peccato non poterlo eliminare. Ecco il perché del diario. Per riuscire a immaginare meglio l'amica tanto desiderata, non scriverò i fatti nel diario come tutti gli altri, ma voglio che il diario diventi la mia amica, un'amica che si chiama Kitty. Visto che nessuno capirà un H di quello che racconto a Kitty se non mi presento, dovrò fare un breve riassunto della mia vita, anche se mi scoccia. Mio padre, che è un vero tesoro di padre, si sposò appena a 36 anni con mia madre, che ne aveva 25. Mia sorella Margot nacque nel 1926 a Francoforte sul Meno, in Germania. Il 12 giugno 1929 poi nacqui io. Fino ai 4 anni abitavo a Francoforte. Dato che siamo ebrei puri, nel 1933 mio padre andò in Olanda. Fu nominato direttore della Opecta olandese, una ditta che produceva marmellate. In settembre mia madre, Edith Frank Hollander, lo seguì in Olanda, mentre io e Margot eravamo ad Aquisgrana dove abitava la nonna. Margot andò in Olanda in dicembre e io in febbraio. Mi misero sul tavolo il giorno del suo compleanno come una specie di regalo. Ben presto fui mandata all'asilo Montessori, al sesto corso. Lo frequentai fino ai 6 anni, poi passai in prima. In sesta ero nella classe della signora Cooperus, la direttrice. Alla fine dell'anno scolastico ci salutammo a malincuore, piangendo tutte e due, perché ero stata accettata al liceo ebraico, lo stesso che frequentava Margot. Si era sempre in ansia per i familiari rimasti in Germania, che non furono risparmiati dalle leggi antisemite di Hitler. Nel 1938, dopo i pogrom, i miei due zii, fratelli di mia madre, fuggirono in Nord America, dove arrivarono sani e salvi. La nonna venne a stare con noi, allora aveva 73 anni. In maggio del 1940 i bei tempi finirono. Prima la guerra, poi la capitolazione, l'invasione tedesca e l'inizio delle sofferenze di noi ebrei. Le leggi antisemite si susseguivano all'infinito e la nostra libertà fu molto limitata. Gli ebrei devono portare la stella giudaica, gli ebrei devono consegnare le biciclette, gli ebrei non possono prendere il tram, gli ebrei non possono andare in auto, neanche se è di loro proprietà, Gli ebrei non possono fare acquisti dalle 15 alle 17, gli ebrei possono andare solo dai parrucchieri ebrei, gli ebrei non possono uscire per strada dalle 20 alle 6 di mattina, gli ebrei non possono andare a teatro, al cinema e in altri luoghi di divertimento, gli ebrei non possono frequentare la piscina, nei campi da tennis e di hockey e quelli per gli altri sport, gli ebrei non possono andare in barca, gli ebrei non possono praticare nessuno sport all'aperto, gli ebrei non possono trattenersi nel proprio giardino né in quello dei conoscenti dopo le 8 di sera, gli ebrei non possono andare a casa dei cristiani, gli ebrei devono frequentare scuole ebraiche e altre simili. Così vivacchiavamo senza poter fare questo e quello. Jack mi dice sempre: non oso più fare niente perché ho paura che sia proibito. Nell'estate del 1941 la nonna si ammalò gravemente. Dovette farsi operare e il mio compleanno passò in sordina, proprio come nel 1940, perché in Olanda la guerra era appena finita. La nonna morì in gennaio del 1942. Nessuno sa quanto io penso a lei e quanto bene le voglio. Quest'anno però abbiamo festeggiato il mio compleanno per recuperare. C'era anche la candelina per la nonna. Margot e io, nell'ottobre del 1941, siamo state trasferite al liceo ebraico, lei in quarta e io in prima. Noi quattro tiriamo avanti. Così sono arrivata alla data di oggi. Qui inauguro solennemente il mio diario il giorno 20 giugno 1942. Sabato 20 giugno 1942. Cara Kitty, allora comincio subito. È così bello tranquillo, papà e mamma sono fuori e Margot è andata a giocare a ping pong dalla sua amica Tris. In questo periodo anch'io gioco parecchio a ping pong, tanto che in 5 amiche abbiamo costituito un club. Il club si chiama L'Orsa Minore meno 2. Un nome davvero strano, ma si basa su un errore. Volevamo trovare un nome particolare e ci era venuta in mente l'Orsa Minore. Pensavamo che fosse fatta di 5 stelle e invece ci sbagliavamo, proprio come l'Orsa Maggiore ne ha 7. Da qui quel meno 2. Il Se Wagner ha un tavolo da ping pong e il grande tinello dei Wagner è sempre a nostra disposizione. Dato che noi giocatrici di ping pong, soprattutto d'estate, piacciono molto i gelati e che il gioco fa venire caldo, le partite per lo più si concludono con una spedizione dal più vicino gelataio aperto agli ebrei, o Oas o Delphi. Il portamonete e i soldi non ci preoccupiamo nemmeno più di portarli, perché da Oas di solito c'è talmente tanta gente che si trova sempre qualche signore generoso della nostra cerchia di conoscenze o uno dei nostri spasimanti che ci offrono più gelati di quanti ne riusciamo a mangiare in una settimana. Ecco gettate le basi della nostra amicizia. A domani. Tua Anne. Domenica 21 giugno 1942. Cara Kitty, tutta la classe trema. Il motivo ovviamente è il prossimo consiglio dei docenti. Metà dei miei compagni fanno le scommesse se saranno promossi o bocciati. Io e Miep lo batto, ridiamo da matti di quelli del banco dietro di noi che hanno puntato l'uno sull'altro tutti i soldi delle vacanze. Tu passi, tu no, tu sì. Così vanno avanti dalla mattina alla sera. Gli sguardi di Miep che li scongiura di stare zitti e le mie sgridate non bastano a calmare quei due. Secondo me un quarto della classe dovrebbe essere bocciato. Sono così asini? Ma gli insegnanti sono le persone più imprevedibili del mondo. Forse questa volta, tanto per cambiare, saranno imprevedibili in modo positivo. Non temo per me e le mie amiche, noi dovremmo farcela, solo per la matematica non sono sicura. Portiamo pazienza e si vedrà. Intanto ci facciamo coraggio a vicenda. Con i professori e le professoresse mi trovo abbastanza bene. In tutto sono 9, 7 uomini e 2 donne. Il professor Kesing, vecchio saggio matematico, per qualche tempo è stato arrabbiato con me perché chiacchieravo troppo. ha continuato ad ammonirmi e alla fine per punizione mi ha assegnato un compito. Dovevo fare un tema dal titolo «Una chiacchierona». Che cosa si può mai scrivere di una chiacchierona? Ci avrei pensato più tardi. L'ho scritto sul diario e dopo averlo riposto nella cartella ho cercato di stare tranquilla. Di sera, dopo aver finito tutti gli altri compiti, mi casca l'occhio sul titolo del tema. Comincio a pensarci succhiando l'estremità della stilografica. Chiunque sarebbe stato capace di scrivere le solite stupidaggini con la calligrafia più larga possibile per occupare più spazio, ma trovare una prova soddisfacente del fatto che è indispensabile parlare non è da tutti. Pensa che ti pensa. Finalmente mi viene un'idea. Riempio le mie 3 paginette e ho finito. Per difendere la mia tesi, avevo affermato che il parlare è tipico delle donne, che farò del mio meglio per limitarmi un po', ma che di certo non riuscirò mai a disimpararlo, perché mia madre parla quanto me, se non di più. E contro le questioni ereditarie non c'è molto da fare. Kesing ha riso di cuore delle mie giustificazioni, ma visto che durante la lezione seguente ho continuato a chiacchierare, mi ha appioppato un altro tema. Questa volta si intitolava «Una incorreggibile chiacchierona». Ho consegnato anche questo e lui per 2 lezioni non ha avuto niente di cui lamentarsi. La terza lezione però ha perso di nuovo la pazienza. «Anne Frank, per punizione farai un tema dal titolo «Qua, qua, qua, dice la signorina Starnazzina». Tutti si sbellicavano dalle risa. Anch'io non ho saputo trattenermi, però avevo esaurito la fantasia sul tema delle chiacchiere. Dovevo farmi venire in mente qualcos'altro, qualcosa di originale. La mia amica Sanne, che è brava a scrivere poesie, si è offerta di darmi una mano a scrivere un testo in rima. Ero felice. Kesing, dandomi quel tema, voleva prendermi in giro, ma io avrei preso in giro lui 3 volte tanto. Così abbiamo scritto una poesia fantastica. Trattava di una coppia di cigni con 3 piccoli che vengono uccisi a beccate dal padre perché starnazzano troppo. Per fortuna Kesing è stato allo scherzo e ha letto la poesia commentandola nella nostra classe e anche in altre. Da allora mi lascia chiacchierare e non mi punisce più, anzi, adesso scherza sempre. Tua Anne. Mercoledì 24 giugno 1942. Cara Kitty, fa un caldo tremendo. Tutti sbuffano e sudano e a me tocca andare sempre a piedi. Solo adesso mi accorgo di quanto sono comodi i tram, soprattutto quelli aperti. Ma noi ebrei non possiamo più prenderli, dobbiamo accontentarci di andare pedibus calcantibus. Ieri all'ora di pranzo sono dovuta andare fino dal dentista nella Jan Lukenstraat. Dalla scuola è molto lontano. Infatti poi di pomeriggio a scuola stavo per addormentarmi. Per fortuna la gente ormai ti offre sempre da bere. L'infermiera del dentista è stata davvero gentile. L'unico mezzo di trasporto che possiamo ancora usare è il traghetto. L'uomo che lo guida ci ha fatto salire subito quando gli abbiamo chiesto di attraversare. Non è colpa degli olandesi se noi ebrei ce la passiamo così male. Se solo non dovessi andare a scuola. La bicicletta me l'hanno rubata durante le vacanze di Pasqua e quella della mamma, papà, l'ha data in custodia a certi suoi conoscenti cristiani. Ma per fortuna le vacanze si avvicinano a grandi passi. Ancora una settimana, poi è finita. Ieri mattina mi è successo un fatto simpatico. Passavo davanti al deposito di biciclette quando mi sento chiamare. Mi volto e vedo dietro di me un ragazzo che avevo conosciuto la sera prima da Vilma, una mia amica. Si avvicina con fare un po' imbarazzato e si presenta col nome di Hello Silberberg. Ero un po' sorpresa e non sapevo che cosa volesse, ma non ho tardato a capirlo. Voleva accompagnarmi a scuola. Se vai dalla stessa parte, volentieri, gli ho detto io, e ci siamo incamminati insieme. Hello ha già 16 anni e sa raccontare un sacco di cose interessanti.